Riporto qui di seguito una lettera aperta di una lettrice a chi soffre di tumore inviata ad un periodico. Il 21 gennaio 1990 di nome Gianna. Dopo tanti anni di ufficio lavorati duramente, stavo andando in pensione progettando. Innumerevoli cose da fare e sogni da soddisfare, mai potuti realizzare prima per mancanza di tempo. Prima di intraprendere un viaggio un po' lungo decido di fare un check-up e scopro di avere un fibroma uterino. Niente di grave, il medico che mi fa la diagnosi dice che al 95% è di forma benigna. Abbastanza tranquillamente nel giro di qualche giorno mi faccio operare. Dopo qualche giorno già a casa mio marito dice che devo andare in ospedale per una visita di controllo, ma in un altro reparto. Niente di male, dico io. Quel giorno però mi è crollato il mondo sul capo. Sono entrata in un centro oncologico. Ho provato che cosa è la morte morale. Oltre al fibroma c'era anche non visto un carcinoma a un ovaio per cui dovevo fare un ciclo di chemioterapia. Da quel momento non ho avuto nessuna volontà, solo uno sconforto ed un abbandono totale. Cominciai le applicazioni soffrendo moltissimo. Confesso che in certi momenti ho anche pensato di non continuare le cure. Poi, grazie all'amore e alla totale dedizione di mio marito, ho cominciato a pensare che non era giusto farlo soffrire ulteriormente con i miei stati d'animo e che, se avessi dovuto morire, era opportuno gli ultimi tempi li trascorressi nel modo migliore. Di a quel momento ho cominciato, quando mi prendeva lo sconforto, a pensare intensamente a ciò che mi faceva rallegrare. Poi ho cercato di impegnarmi moralmente e fisicamente, andando a conferenze, anche se nei primi tempi non le ascoltavo completamente, ed andando in palestra. Da quel momento ho cominciato ad apprezzare la vita ed ogni nuovo giorno è una conquista. Riesco a dare valore diverso alle cose e provo delle gioie che prima non provavo. E così, giorno dopo giorno, è subentrata una specie di sfida tra me ed il male e tanta speranza di farcela. Ora sono trascorsi 4 anni e ringraziando Dio sto bene ed ho ancora tanti progetti e tante cose da fare. Questa lettera mi ha profondamente toccato e mi ha fatto pensare. 1. Perché mi ha ricordato che potremmo un giorno trovarci nella medesima situazione. 2. Perché questa donna è riuscita a superare un'esperienza nella quale molti falliscono. 3. Perché chi ha scritto questa lettera non si è dichiarata credente e quindi ciò che le ha fatto superare la prova non è stata la fiducia in Dio. 4. Perché noi credenti, pur essendo equipaggiati per affrontare ogni situazione, siamo spesso sconfitti. Queste riflessioni hanno suscitato in me l'inevitabile domanda: come mai persone senza fede sono vittoriose là dove al credente può capitare di fallire? Come è possibile che certe persone non curanti del problema di Dio dimostrino forza e determinazione mentre alcuni credenti colpiti da mali incurabili si scoraggino e a volte perdano la fede? La risposta che mi sono dato è semplice e, nello stesso tempo, umiliante per chi ha fede in Dio. Gianna ha superato le sue difficoltà mediante la potenza dei principi cristiani, mentre alcuni cristiani, pur conoscendo e disponendo di tale potenza, non ne usufruiscono. Quali principi cristiani ha dunque applicato Gianna per superare moralmente e fisicamente una malattia tanto grave come il tumore? Rileggendo la sua lettera ne ho ravvisati 7. Primo principio. Ha esercitato l'amore. Confesso che in certi momenti ho anche pensato di non continuare le cure e una forma di suicidio. Poi, grazie all'amore e alla totale dedizione di mio marito, ho cominciato a pensare che non era giusto farlo soffrire ulteriormente con i miei stati d'animo. Gianna era frastornata e la prima reazione è stata quella di chiudersi nel suo dolore. Quando soffri, sei tu che soffri. Le parole di consolazione che ti vengono rivolte hanno un valore relativo. Così, Gianna aveva tutti i diritti di vedere il lato negativo della situazione perché in fondo un tumore è un tumore, ma ad un tratto si è resa conto che di non essere un'isola, che la sua vita era strettamente legata ad un altro e che questa persona inevitabilmente era coinvolta nella bufera del dolore che lei stava vivendo. Con amore si è interessata più a suo marito che non al dolore che provava. È uscita dal suo egocentrismo e dall'autocommiserazione per interessarsi di chi le voleva bene. Il vero amore dimentica se stesso per occuparsi del prossimo, per cercare ciò che è importante per gli altri. Quando Gesù fu arrestato assieme ai suoi discepoli nel Getsemani, disse ai suoi aguzzini: «Se dunque cercate me, lasciate andare questi». Il nostro Salvatore era più preoccupato per i suoi discepoli che non della sua sorte. Perfino nell'ora estrema della sua vita si interessò di colei che l'aveva partorito, dicendo al suo discepolo Giovanni: «Ecco tua madre». E la scrittura continua: «E da quel momento il discepolo la prese in casa sua». Gesù stava per lasciare questa terra nel modo più atroce, ma i suoi ultimi pensieri sono stati per coloro che lo amavano. Secondo principio, si era allegrata della vita. Da quel momento ho cominciato, quando mi prendeva lo sconforto, a pensare intensamente a ciò che mi faceva rallegrare. Non è stato sufficiente per Gianna uscire dal suo banchetto di cordoglio per interessarsi di suo marito. Ha ritenuto il suo passato da condannare all'oblio e, benché avesse l'animo esulcerato, ha deciso di volgersi a ciò che la poteva rallegrare. Questo principio cristiano non è solo un principio, ma un comandamento. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Un cristiano che non gioisce in ciò che appartiene a Dio e al suo regno disonora il suo Salvatore. L'ordine di Dio di rallegrarsi non è fine a se stesso, esso ha anche uno scopo terapeutico. Secondo la scrittura, un cuore allegro è una buona medicina, un gran rimedio, è salute per tutto il corpo. Ho letto di un uomo al quale avevano diagnosticato un tumore che gli avrebbe concesso 6 mesi di vita. Piuttosto di crogiolarsi nel sottile diabolico piacere della sventura che lo aveva colpito, quest'uomo decise di godere il più possibile la vita. Cominciò a frequentare tutti i divertimenti possibili girando per tutto il mondo. Dopo 6 mesi fece un controllo e con il massimo stupore dei medici seppe che non presentava alcuna traccia di tumore. È possibile che tante malattie che affliggono i credenti siano dovute al fatto che essi non sono allegri e non gioiscono degli innumerevoli doni di Dio? Essere tristi, pur avendo a disposizione la gioia di Dio, è un vero crimine. Terzo principio. Si è impegnata per guarire. Poi ho cercato di impegnarmi moralmente e fisicamente, andando a conferenze, anche se nei primi tempi non le ascoltavo completamente, ed andando in palestra. Gianna si è impegnata con tutte le sue forze per non cedere all'amarezza e all'angoscia. Non ha rivolto un'accorata richiesta a Dio, non ha chiesto che si pregasse per il suo sgomento, non si è ritirata nella sua cameretta per spandere la sua angoscia. Certo, queste cose sono importanti, ma se non sono seguite dalla volontà di volerne uscire, di non cullarsi in lamenti e suppliche, è un vano aiuto e si inciampa senza rimedio. Gianna ha nutrito la sua mente di cose positive e il suo corpo di sano esercizio fisico. Un bellissimo esempio per un cristiano che è chiamato a pensare a tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama. Quelle in cui è qualche virtù e qualche lode. Ad una mente sana si accompagna un corpo sano. Una sana vita morale non è un frutto spontaneo, ma il prodotto di tanto impegno e determinazione. Senza una dura disciplina non si ottengono risultati duraturi. I cristiani che si basano sulle emotività, sugli entusiasmi, sono capaci di grandi imprese per poi cadere rovinosamente con la stessa facilità con la quale esprimevano il loro zelo. Quarto principio, ha deciso di voler godere ciò che la vita offre. Da quel momento ho cominciato ad apprezzare la vita ed ogni nuovo giorno è una conquista. Riesco a dare valore diverso alle cose e provo delle gioie che prima non provavo. Gianna si era costruita delle certezze, la sua vita non aveva subito grandi scosse e viveva in un tranquillo benessere, ma ad un tratto tutti i suoi sogni sono stati violati. Con lo sguardo pavido e pensieri dubbiosi guardava al futuro che minacciava di aggiungere tormento alla sofferenza. Ma anche se è vero che la vita è cosparsa di spine e di erbe amare, è altresì vero che offre tanti piaceri, come dice la scrittura, Dio ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Superata la malattia, Gianna ha guardato il mondo con altri occhi, si è resa conto che la vita offre tante gioie che sono alla portata di coloro che non si lasciano abbagliare dal vortice della quotidianità. Ha capito che vale la pena vivere giorno per giorno gustando tutti i piacevoli sapori che essa offre. Questo purtroppo dopo l'esperienza del tumore. È proprio indispensabile passare per la valle dell'ombra della morte per apprezzare i doni di Dio? Per molti sembra di sì, eppure la vita è un dono da godere e da tesaurizzare, non una condanna da espiare. Un cristiano che si lamenta e vive da miserabile disonora Dio più di un adultero. L'adultero disonora il nome di Dio quando compie l'adulterio. Il cristiano insoddisfatto lo disonora ad ogni istante. Non vi è situazione nella vita che non abbia il suo risvolto positivo. Il tumore, come ogni altra malattia e sventura, è fonte di benedizione per comprendere e gustare aspetti della vita che in precedenza non si erano colti. Là dove splende sempre il sole vi è un deserto. Quinto principio. Ha deciso di lottare. E così, giorno dopo giorno, è subentrata una specie di sfida tra me ed il male. Gianna ha capito che la vita è una lotta, che senza combattere non si ottiene nulla, per cui ha determinato in sé una sfida contro il male con uno spaventato coraggio. Stupenda reazione di chi pensava ad abbandonarsi alla morte non continuando le cure. Gianna non ha voluto cedere e ha reagito positivamente con il desiderio di espugnare altra felicità. Bellissimo esempio per un cristiano, che è chiamato a combattere non contro sangue e carne ma contro i principati. Contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. La vita cristiana non è un viaggio in carrozza durante il quale ci si limita a guardare con indolenza il paesaggio dal finestrino, richiede invece di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, di combattere contro le concupiscenze della vita, della carne e degli occhi, di lottare contro il proprio egoismo per interessarsi del prossimo. Considerare la conversione come il traguardo del cammino spirituale è l'errore più comune di molti credenti. Spesso una grave malattia serve per stimolare e ravvivare nuove sfide in quei credenti che vegetano in un susseguirsi monotono di giorni mediocremente vissuti nella noia. Il cristiano che riposa ha sbagliato esercito. Sesto principio. Ha continuato ad avere fiducia e tanta speranza di farcela. Ottenendo dei piccoli risultati, nonostante la morsa del dolore, il cuore sconvolto, la forza tranciata e un cuore frastornato, Gianna ha acquistato fiducia. L'ottimismo di Gianna non è dovuto al suo carattere o ad autosuggestione, ma scaturisce da piccole esperienze positive. Anche il cristiano è chiamato ad essere fiducioso positivo, non solo perché Dio lo vuole, ma anche constatato nella vita di tutti i giorni. Dei piccoli progressi. L'errore di tanti credenti scoraggiati è quello di dimenticare le prime esperienze fatte con il Signore. Davide, il figlio di Isai, chiese di lottare con Golia perché aveva ben presente il fatto che Dio lo aveva liberato dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso. Quando un credente arriva ad essere demotivato e scoraggiato, spesso succede dopo aver perso ogni fiducia sulle proprie capacità. Ma questo non è sbagliato. È che il Signore vuole portarlo. L'errore consiste nel non confidare nella potenza di Dio perché quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Dio sa dare nuove forze quando ci si trova ad affrontare difficili situazioni. Mai disperare, perché più difficili sono le prove, più grande è la grazia di Dio nel darci nuove forze. Gesù non ha promesso che non ci saremmo mai ammalati, ma che Egli ci sarebbe stato sempre vicino, soprattutto nei momenti difficili. Settimo principio. Ha fatto dei progetti. Ora sono trascorsi 4 anni e ringraziando Dio sto bene ed ho ancora tanti progetti e tante cose da fare. Gianna è soddisfatta dei risultati ottenuti ed esprime la sua riconoscenza nella forma retorica, ringraziando Dio. Per chi è stato pigiato nel torchio del dolore è già un grande risultato. Ma Gianna non si è limitata di essere riconoscente ad apprezzare la vita, si è proposta di guardare con ottimismo all'incerto futuro e di progettare tante cose. Se Gianna fosse stata pagata per quanto ottenuto, molto probabilmente non avrebbe fatto nuovi progetti. Ma ora che è stata travasata dal suo tranquillo scorrere dei giorni, in lei c'è una nuova e sconosciuta voglia di vivere, di lavorare, di progettare, di migliorare. Si può migliorare solo se ci si pone dei traguardi, diversamente i programmi si trasformano in uno sterile attivismo. Anche il cristiano è chiamato ad avere dei traguardi. Egli sa che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina e dirige i suoi passi, ma è anche cosciente che senza progetti non si va da nessuna parte. L'apostolo Paolo, che ha avuto una vita travagliata e sofferta, aveva l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo. Quando siamo profondamente provati, se in noi non vi è ancora il desiderio di fare progetti, di compiere qualcosa di utile per noi e per gli altri, questa è la prova che stiamo subendo la situazione e non accettandola. Che differenza passa tra il subire una situazione e l'accettarla? Accetti una prova quando essa suscita in te una sfida per vivere con migliori risultati, quando non ti senti vittima delle circostanze e non hai colpe da scaricare su qualcuno. Subisci invece una situazione quando sei spento, demotivato, sconfitto. Quando esponi solo problemi e mai soluzioni, quando nutri dei sentimenti negativi verso le persone. E Dio o ti passa la voglia di vivere, come l'uomo nobile escogita nobili disegni e si prefigge cose nobili. Così la persona vittoriosa escogita vittoriosi disegni e si prefigge mete vittoriose. Riassumiamo i 7 principi cristiani che Gianna ha applicato per superare la prova del tumore. 1. Ha esercitato l'amore. 2. Si è rallegrata della vita. 3. Si è impegnata per guarire. 4. Ha deciso di voler godere ciò che la vita offre. 5. Ha deciso di lottare. 6. Ha continuato ad avere fiducia. 7. Ha fatto dei progetti. Queste riflessioni hanno lo scopo di correggere un'opinione errata nell'ambito dei credenti. Una volta diventati figli di Dio, si pensa di avere automaticamente la capacità di superare le prove. Ma le cose non stanno così. Dio ha dato a tutti gli uomini dei valori eterni, inestimabili. Essi sono alla portata di tutti, anche se e soprattutto per coloro che si definiscono cristiani. Purtroppo la realtà è che i non credenti, usufruendo dei valori cristiani, superano difficoltà e prove molto meglio di certi credenti. Questo spiega perché vi sono anime senza alcun timore di Dio che vivono molto più soddisfacentemente la loro esistenza di altre con una fede in Dio. Gianna ne è un esempio. Essa ha provato Cos e la morte morale, gli è crollato il mondo sul capo, pensava al suicidio, era ridotta senza volontà di reagire con uno sconforto totale, era povera, cioè non aveva il dono di essere una figlia di Dio, ma ha messo in pratica i valori cristiani ed ha superato la prova del tumore. I cristiani che sono figli di Dio e sono ricchi hanno ricevuto lo spirito di forza, ma non attingendo dai valori cristiani, spesso vivono da poveri. Non è sufficiente avere fede in Dio se poi manca il senno, la conoscenza, la temperanza, l'accorgimento, la determinazione. La fede in Dio non garantisce automaticamente una vita saggia e vittoriosa, mentre l'appropriarsi dei valori cristiani produce automaticamente benessere per chiunque o, come dicono i profeti, chi li pratica vivrà per essi. La legge non è parziale. Chi si butta da una finestra cade inesorabilmente al suolo indipendentemente dal fatto che sia ateo o credente, così tutti coloro che praticano i principi cristiani usufruiscono dei valori spirituali contenuti in essi. La persona generosa si arricchirà e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Per Dio non vi sono riguardi personali perché la sua parola non solo informa, ma forma chiunque la mette in pratica. Se sei un cristiano e vuoi essere vittorioso sulle circostanze difficili della vita, Non hai altra scelta che fare quello che fa un ateo quando è vittorioso. Realizzare i principi cristiani. La fede in Dio non garantisce il successo sui problemi della vita. Non basta essere un figlio di Dio per superare le dure prove. Si può amare Dio ed essere depressi, angosciati, sentire, come alcuni hanno testimoniato, delle voci che dicono cose terribili, a volte perfino delle bestemmie. Sì, il cristiano è un essere umano con le complessità psicologiche comuni a tutti. Egli può essere migliore della reputazione che gode, ma non può essere migliore dei principi che pratica. Grazie siano rese a Dio, perché non vi sono segreti nella vita cristiana. È possibile trovare la strada appianata e vittoriosa solo se permettiamo a Gesù di correggere e formare i nostri pensieri vivendo ogni giorno dei valori cristiani. E, come per chi impara una nuova lingua, all'inizio il suono delle parole è ostico. Le proposizioni vengono tradotte mentalmente, ma si è imparata la nuova lingua solo quando si pensa nella nuova lingua. Pensare e parlare è diventato tutt'uno. Così è dei valori cristiani. Colui che se ne appropria al punto che essi fanno parte ormai del modo di pensare, parlare e vivere sarà protetto da essi. Chiunque li mette in pratica è vincente. E così, ancora una volta, prostrati ai suoi piedi e adora. Colui che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e a cui appartengono tutte le tue vie, dicendo Amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse 7 e 12. Questa è la poesia di una donna credente vissuta per 14 anni con un tumore e morta all'età di 27 anni. Sposatasi un anno prima della sua morte nonostante sapesse del suo devastante male. Il tumore è limitantico testamento o menomare l'amore, frantumare la speranza, corrodere la fede, distruggere la fiducia, uccidere l'amicizia, tenere lontani i ricordi, annientare il coraggio, invadere l'anima, ridurre la vita eterna, spegnere lo spirito, diminuire il potere della resurrezione. Febbraio 1990. Consiglio vivamente. Gioia nel dolore. Mins. E il Leroux.